Il punto di Stefano Folli. Tradotte sul terreno della campagna elettorale sono due le tesi che si scontrano per lo scandalo del Monte dei Paschi. Una è quella fatta propria dal PD di Bersani. Il sistema finanziario è solido, la vicenda è circoscritta a Siena, niente panico. L'altra è quella che afferma il contrario. Il sistema è marcio, il PD coinvolto, il sistema bancario è mafioso, subito una commissione d'inchiesta. Viene sostenuta da Grillo e Di Pietro con maggiore convinzione rispetto al PD e punta a travolgere i democratici entro le prossime settimane. Per ora i sondaggi segnalano una sofferenza del Partito Democratico, ma non un deciso arretramento. Vedremo cosa intende la Procura Toscana quando accenna a situazioni esplosive. E intanto Berlusconi, con la solita agilità, preferisce muoversi su un altro piano. L'acquisto di Balotelli significa forse quanto a spostamenti di voti più del Monte dei Paschi.